sono niente meno e niente più. Tutto quello che non vedono è perché non vuoi vederlo tu. Cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu. Salute, e c'è chi pensa a quello.